sua giovane età può essere molto soddisfatto del successo ottenuto sia come cantante che come autore. Musica in chiusura di giornale con la Tiziana Ferro, io non lo so, il cantante italiano se lo sarebbe riconosciuto come se fosse omosessualità Tiziana Ferro. Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita. Non posso rifarlo e raccontarlo, è una gran fatica. E vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Non mi sembra vero, che non lo è mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un altro inverno. Non cambio mai su questo, mai distruggo tutto sempre. Se vi ho deluso, chieder scusa non servirà a niente. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. In un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.